un mondo che non c'è più, tu che vuoi da me, un mondo che non hai più, io vorrei per te capire quel che vuoi tu, che vuoi per me, lasciarmi nei pensieri tuoi. Io vorrei per te che riesci in quel che vuoi, che vuoi per me, che riesco in quel che vuoi, io avrei per te i sogni che non hai più, tu che hai per me un sogno che non c'è più, io vorrei per me un mondo che non c'è più, tu che vuoi da me, un mondo che non c'è più.